basso di quella lì, e sotto c'è praticamente l'attacco che tocca praticamente alla calamita, quindi devi girare un pochino per non farlo toccare. No, è buco, cioè da me è un bel largo, un bel spazioso, no, no, no, non so che cosa fare. Praticamente neanche piega, perché allora il cavo entra da, diciamo, dalla parte superiore, esternamente, no? Va leggermente verso il basso e poi si mette subito in orizzontale. Lì ci va saldato una specie di coroncina che poi fa da massa. E poi il polo centrale, non è fregato, lì va saldato, non mi ricordo se va saldato, sì, forse è saldato il centro. A me lo stesso, non ne devi fare pieghe già, chissà com'è la tua, è diversa dalla nostra, vuol dire, da me pieghe non ne devi fare. Non ci sta nessuna maniera, riprovate, non ci sta, perché non c'è lo spazio adatto, c'è il gommino dell'antenna, se io tolgo il gommino magari va meglio, ma il gommino è quello che dà problemi, ne ho dovuto tagliare anche questo, quel gommino, quel cappuccetto che c'è, se ne ho dovuto tagliare un pezzo, perché se no tocca la troppa non ce la faccio più, manco piegare. Ma da me assolutamente non ne devi fare, è diversa dalla nostra. Pieghe non ne devi fare. È interessante che abbia, va già. Sì, sicuramente, perché deve essere leggermente più piccola, quindi gli spazi sono ridotti e ti devi arrangiare così. Invece questa, essendo grande, dentro c'è un foro, sarà 4-5 cm di spazio, dove tu puoi girare attorno tranquillamente, senza toccare nessuna parte. E infatti già gliela faccio vedere a Gianni quando ci troviamo. Sicuramente è diversa da quella che abbiamo noi, fra. Quella della regola, basta andare a vederla, quella grande della regola. E no, ce ne sono da tanti tipi di basi magnetiche. Quella che ho io è tutta in ferro. Ci metto l'antenna direttamente. Perché bassa quella che ho io, mi? È un bel bassa, è piatta e larga quella che ho io. L'ho presa da Fusaro. L'ho presa anche da Fusaro. Sicuramente anch'io, perché non è che c'era molta scelta prima, Fusaro o GBC. Ma ce ne sono tanti di modelli di base magnetica, capito? Ce ne sono tanti modelli. Quelle che usano i continenti a tre piedi, quelle lì sono ben buone. Dice che non si staccano, ma così ti ammazza. Sono più stabili? Dice che sono attacca la mente. Praticamente tu la metti sulla macchina e attacca la mente. E dice che è molto, molto potente, come solo che non vedo, stacca la macchina e ti la graffa. Devi stare attento sempre, quando la appoggi devi essere sicuro che è in mezzo, perché poi puoi stare sempre togli e metti, metti e togli. In origine la mia aveva una specie di carta stagnola sotto. No, la mia c'ha una cosa in plastica, in gomma, c'ha il tappo in gomma, di modo che non graffi la carrozzeria, ma io ogni volta che la metto pulisco prima la carrozzeria e poi sotto la base, se no me la graffo. Sì, e la tua com'era, Nathalie? Aveva la carta stagnola sotto? No, la gomma c'ha, è buca. C'è il coperchio di gomma, non è a carta stagnola. Poi c'era mia, aveva un tappo tipo stagnola, un po' robusta, dai. Però poi l'avevo tolta perché avevo cambiato antenna, l'avevo aperta, perché avevo cambiato il sistema di attacco di antenna, dai. E quindi alla fine poi anche io avevo fatto uno strato di gomma, non molto grossa, se no poi perde potenza la calamita, capito? Ma la mia, stavo anche andando tranquillo, però un cavolo si stacca, e poi attacca, è quella larga larga bassa che vendono da Fusaro, e poi l'antenna mia non è tanto pesante, la PLC 800 già è leggera, non è pesante, quella che ha Gianni è più pesante. Sì, è bello. Appena il 700 è più flessibile, invece la mia rimane più rigida. No, ma quella che mi si era attaccata a me era pesante, perché all'epoca c'era, come si chiama, la frusta nera. Era grossa quanto un pollice, alta, penso 1,70, non mi ricordo. C'era ancora quella antenna lì, eh. Io adesso cerco nuovo di frusta nera, ma c'è anche l'attacco. No, ci manca poi con l'attacco. È rimasto il petto di su con radialino da regolare stazionarie e basta. Dalla me, fraga, io ho l'attacco in macchina. Ne tolgo quella VHF e ci attacco quella. Così non mi metto la base magnetica. Però ci manca l'attacco di sotto, tu ce l'hai? Ehi, è già fissato alla macchina. No, allora, l'antenna, diciamo, alla base dell'antenna c'era avvitato un qualcosa che poi finiva a occhiello. Ecco, quello lì ci manca. E tu da mira, ti sto dicendo che l'attacco subito alla macchina mia. A me non c'è problema, se ti serve io, tanto io non la uso più quella lì. Così ti faccio vedere se l'attacco via. Se c'è già l'attacco da me. C'ho un'antenna VHF io. Che l'avevo messa per l'autoradio. Bella, non c'è problema. Io ci attacco quella lì così non mi metto la base magnetica. La base magnetica torna qua. E vedi che già funziona adesso che l'ho raschiata sotto. Aspetta che la cerco, gli faccio la foto e te la mando. Ehi, già lo so com'è. Grazie a voi, buonasera. Ciao Cristian. Vi stavo ascoltando su queste antenne qui. Io ce l'ho la frusta nera. E allora venga a casa, che adesso cercando una. Però te la posso dare per un motivo, che la base della frusta nera sono sulla LEM, ce l'ho io. Ci trovano comunque, cioè ci trovano in vita, anche su internet ci sono. Sì, ma la mia base è quella fine e piatta, capito? Fine e piatta. Non è quella con la tecnofarfa. Sì, ma la base è magnetica, non è quella alta. Sarà alta, boh, neanche un centimetro di spessore di calamita, capito? E allora è come quella che ho io. Da 150 la mia base. E 16 è la tua, da 16 come la mia sarà. C'è scritto sopra Sirio, marcata Sirio, sopra e sotto. E non lo so, da me non c'è scritto nulla, mi sa. Però mi sa che era della Sirio anche la mia. È bassa bassa come base magnetica. Massa e larga, larga ed è molto bassa e c'ha sullo stilo centrale piccolino alto, boh, c'ha... e tiene benissimo, assicurato, tiene 190, che tachimetro tiene? E boh, la mia deni un beppa cosa è larga e bassa e attacca un bene. Però se mi dà la frusta nera ne raggavo e la pongo sopra lo frigorifero questa antenna in oggi e mi metto la frusta nera che ho già l'attacco in macchina, così non ho bisogno di mettere, come si chiama, la base magnetica. Adesso è sceso a Cagliari con quell'antenna lì a 190 tachimetro e è rimasta attaccata com'era, non si è portato 2 mm. Ma lo sbaglio l'ho fatto io perché per non graffiare la cappotta l'ho lavata, l'ho lasciata bagnata e sicuramente la calamita non ha attaccato bene. Molto probabile. Infatti. Non ha attaccato bene perché l'ha bagnata, capito? E vabbè, là, sono cose che uno non ci pensa, l'ho pulita perché c'è una polvere sotto. Poi l'antenna non la attacco mai della macchina, per un motivo, vivo in campagna, si è attaccata l'antenna. E anche se la lasci tanto le tocca nessuno. Ma anche la tocca. Io vivo in campagna, sempre attaccata l'antenna in città, sempre fissa mai. Ma la magnetica c'ha? Vabbè. Ma me la magnetica una volta me l'hanno rubata, me l'ho tagliato un filo, me l'hanno rubata. A me mai, perché vabbè. Un discorso diverso, dai. Che mi sento in campagna, è rubito. Neanche se dei pigi non ho toccato da me l'antenna. Adesso sono altri tempi, non ne rubano più, ma prima rubavano baracchini, antenne, tutto gatto. Tu non ci sei stato con le rali, ma io sì. Auto radio, anche le macchine intere. Anche cappetto, ma il cappetto Cristian. Era io che lo rubavo, non c'era. Se lui è qualche anno più piccolo di me. Vero, eh? Buonasera. Ciao carissimo. Sono in ascolto da poc'anzi, dai, sto facendo cosa, quindi vi fate compagnia. Ehi Anna, siamo contenti per te, che senti la nostra bella voce. Oddio già. Andrà bene, dai, mi accontento di questo baracchino per ascolto, già va bene. Rilancio, dai, ciao, che sto facendo cosa. Io ti sento bene, non ho problemi. Io ti ascolto basso qui, però già ti ascolto. Vabbè, io ce ne vedo a capire, mezzo ai palazzi, E tu sei sempre fra le fresche frasche. Vabbè, caro, già lo sai come sono fatto io. Andrea, ciao, che sto facendo cosa. Gianni, a proposito, non è che ti trovi una base magnetica per una VU piccolina? No, negativo, ve l'ho già chiesto. Non ce ne ho di quelle con l'attaccorbit APL. Va bene, dai, ok, grazie lo stesso. No, quel X da parte mia. Ecco, mi sono entrato, È quella già. Vedo però l'attacco in basso, non è originale perché si era rotta. E poi vedo che manca anche lo stilo per regolare il stazionario, ma quello già si busca un pezzo di pezzo d'acciaio, un pezzo di ottone. Sì, vabbè, adesso vediamo. L'attacco già dovrebbe essere quello. Sì, l'originale si era spezzato, finiva a occhiello, era più delicato, dai. Qui adesso non mi ricordo cosa gli ho messo, comunque alla fine poi è a occhiello normale. Comunque ciao Cristian, ciao, chi era la tattina o muscolo, buh? Ciao a tutti. Capo, un abbraccio anche a voi. Avanti Cristian, se mi senti. Ti sento forte e chiaro. No, anche io ce la posso andare a casa. Non la metto perché va tarassa, capito? Ecco, che fosse più alta, non è 1,70 come dicevo, Natalia. Mi sembra che sia 1,20 mi sembra. Adesso la misura, dai, prendo un metro. E più o meno la mia è 1,20 mi sembra, Sì, 1,20, per esempio io 1,50. 1,20 la mia. Natalia. Sono con 3,009 adesso, come va? Microfono normale? Bene. Di lusso? Un po' che non l'accendevo, adesso l'ho acceso, nuovo, lo uso pochissimo questo. Sì, un barrettone di microfono è quello originale. Ma deve essere, secondo me, precompreso, qualche cosa ce l'ha perché è pesante. Anche il mio, c'è scritto Star. Esatto, sì, è quello lì proprio, è proprio quello. Anche per me un attimino. Sì, l'originale è suo, è poco pesante, è un barrasone. Infatti io in macchina non me lo metto perché è un barrasone, l'apparato e il microfono. E già c'ho quello piccolino. Ma esce bene, dai, è un barrasone, ma esce bene. È un bel microfono, dai. Non si può lamentarsi. Sono solo che è troppo in macchina, cazzo, come fai a metterti in macchina un apparato del genere? È troppo grande. Già ci sta. Già ci sta, mi sarebbe piaciuto mettermi quello, perché c'è bene. Sembra sì. Io gioco a cosa pure in miro, boh. Marco mi ce lo mette in macchina quello. Ma come ti vai a metterlo fisso un apparecchio così grande? Mi piace come esce Marco, me l'ho comprato perché mi piaceva la modulazione di Marco, come usciva. E adesso l'attacco mi alla prunga, te lo faccio sentire quello normale. Allora, l'antenna è 1,40, più ci vorrà il radialino per le stazionarie, dai, quindi 1,50 sarà in tutto. Già me la metto a posto io. Ne ho trovato uno, ma anche stringendo a morte non ce la fa a prendere, è troppo sottile, quello che è in ottone, non è di quell'antenna, vuol dire. Aspetta che provo il microfono originale del 3009. Capo, avanti Cristian. Cristian, non c'è più. C'è solo ancora, un attimino, un attimo di bianco, dai. Ok, siamo qua. Gianni, questo è quello normale, sei forte. È il microfono normale del 3009 questo. Sono più forte di prima. Più forte di prima? Questo è il 3009. Ma lo stai parlando da vicino, Comunque il volume io non l'ho toccato. Sei più forte di prima. E cosa vuoi che ti dica? Questo è il microfono normale del 3009 e lo sto usando sopra il 3009 proprio. Ho cambiato apparato, capito? No, quell'altro è che l'ho abbassato io, sennò è troppo vuoti e piglia la televisione che è accesa. e lo uso basso basso, se no già posso aumentare anche l'altro. Sicuramente è più chiaro l'altro, però come potenza ne ha neanche questa capsula, spinge bene. Guarda, questo è l'altro l'apparato, però adesso l'ho alzato, guarda un po'. No, c'era qualcuno sotto. No, questo è più chiaro come usazione, comunque è forte anche questa. Però anche l'altra si difende bene, dai. Guarda, questo qui è il 3009 col Turner, come va? Bene, bene. Si sente l'amplificazione? Non tantissimo, prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, no, non lo so. A te cosa ti sembra, Natali? Insomma, aspetta che l'attacca all'MB più 4, il 3009. Provate, provate, io non mi alto. Posso mettere il microfono normale anch'io, ma penso che perda, vabbè. Non ti dice che spengo il valvolare, che l'ho acceso per scaldare un po'. Con quello che costa la corrente adesso. Guarda, questo è l'MB più 4, con il 3009. No, va bene, va sempre bene. E te credo. E c'ha anche una bella ricezione questo 3009. Non ne prende colpi, no? Oh, l'unica cosa che ho omologato, c'ha 40 canali solo, 4 watt, perché non l'ho toccato. Se no c'ha i canali, tutto. Volendo già sposti un jumper e c'ha tutti i canali. Però questo, se fai quello per l'omologazione, capito? L'ho lasciato come l'ho comprato. Questo è nuovo nuovo, l'avevo comprato nuovo io. Ne ho viste le modifiche. Sia di potenza, insomma arriva quasi a 20 watt e pare la modifica. E in più arriva a 400 canali, mi sembra. 271 mi sembra che ne abbia. C'ha l'SSB, c'ha tutto. FM, SSB, CW. E non amplifica questo microfono, guarda, 1, 2, 3. Ma se mi sto ascoltando. Aspetta, mi sto ascoltando con l'altra radio e si sente l'amplificazione. No, no, va bene, però non è eccessiva, cioè di quelle che senti un rumore di fondo, tipo a volte Natalino che sento tutto quanto, il cane, sento la televisione, la signora, si sente tutto. Perché io sono in una stanza, sono una stanza da letto, quindi non si sente nulla, non c'è nulla acceso. Comunque già si sente, a voglia, mi sto ascoltando in cuffia adesso. Sto uscendo bene, sto uscendo con un fischio perché c'è stato attaccato l'altro apparecchio. Vabbè, dai, lo volevo solo provare. No, è un'ottima radio, niente, nulla da dire. Però ripeto, è pulita, non si porta via di. Anzi, sicuramente perché non, come dici tu, non c'è niente da portarti dietro, quindi è chiarissima per quello. E anche la mia non si sente nulla, perché è tutto spento, non c'ho niente attaccato. Adesso non c'è nulla attaccato. E l'altro lo tengo basso perché sennò fa quel difetto che hai detto tu. No, infatti non mi riferivo a oggi, ma altre volte mi ricordo, diceva basta la tele che ti sente tutto ciò che ti circonda. Guarda, così è alto il volume. Qui si sentono un po' le ventole accese, cosa sono? Blu, non c'è niente acceso qua. Forse la ventola del computer, le ventole degli alimentatori, blu, si sentiranno, ma io lo tengo così e dovrebbe eliminare tutto. Cos'è? Così, un bombo è così. E infatti lo tengo basso per quello. Stamattina è che ero scalmanato in banda laterale, che ha messo tutta la manetta, mi ha risposto un russo. Come l'hai parlato? In russo? No, in inglese. Cavagava. E stanno modulando con la guerra, il casino. E uno spassiba era proprio. A me invece mi è arrivata una mail dall'ARI, l'associazione degli animatori. Se capita, dice, una comunicazione con ucraini, a non rispondere addirittura, perché potresti metterli nei casini praticamente, dai. E infatti. Ma il bello che bisogna sapere se sono ucraino o cosa so. Ascolta, volevo sapere una cosa, come ci va meglio, con l'altro microfono o con questo? Può essere quindi di difficoltà. Per me io ti ascolto sempre bene. Vabbè, dai, lasciamo questo qui per il momento, poi gli attacco il suo. E tanto per farlo andare questo microfono, perché ce l'ho sempre fermo, che non c'ho posto a metterlo, se no non avevi abuso. Dovete fare, dove passare, diciamo, vicini uno all'altro, così riesco a memorizzare un po' la modulazione, così a distanza di troppi minuti non ce l'ho più presente. Ho capito, la fatti dinni, perché sono al buio, sono sdraiato e non aggiungano di vanuda. Oggi mi ha fatto anche un bel matto di asparagi, L'altro giorno ce le avevo e mi ho fatto una bella frittatona con gli asparagi. Qua c'è una bella frittata, adesso ne do anche un po' alla mammina a assaggiarli. Gava. Ferrovia. Lungolinia, c'è un'impresa che sta lavorando. Mentre scavava a fianco proprio, io prima che li rovinasse con la benna li tagliavo e li raccoglievo. Hai visto, lì non ci va nessuno perché non si può passare, quindi crescono tranquilli. Ma tutto tagliato, ormai c'erano due di Olmedo, due anziani di Olmedo. Uno sembrava, come si chiama l'attore che ha fatto Hannibal, Anthony Hopkins, c'aveva un buco in fronte, sembrava che l'avessero sparato un cecchino, pieno di sangue, sicuramente qualche ramo gli ha rotto qualche vena, sembrava una scena di un film d'orrore proprio. Ah, roba fresca, Ehi, verso verso la una, che poi si prendono il treno della una e se ne rientrano a Olmedo, capito? Ah, ecco. E intanto sono sulla linea ferroviaria col pericolo che c'è, Addirittura qui sono anche avvicinati a noi, hanno chiesto qua, se ci serviva formaggio. Ah. Vendita proprio online, lungo linea proprio online, fra un'altra linea, linea ferroviaria. Tu li dovevi dire, sì, grazie se già ci serve. No, io conosco anche qualche parente che lì è almeno, ragazzi che sono parenti di questi vecchietti. Quindi li ho trattati abbastanza bene, no? Ehi, da puri. Interessante che siano attenti a cosa devi dire. Sanno che c'è l'interruzione perché dalle 8.45 alle 12.30 sono stati soppressi i vetrini. E poi la sera, lo stesso, dalle 14.45 fino alle 18.30 non ci sono treni. Per permettere a questi di lavorare, dai. Cappa. Ho capito. Andà bene. Avanti, Natalino. Vediamo un po' se Cristian esce ancora. Cristian, ripetiti un Natalino. Cappa. Adesso mi bevo un litrozzo d'acqua. E questi chi sono? Ucraini. Ma lo sai in russo quanto mi arrivava? Santiago 9 Radio Super 5 in banda laterale. Ci credo, c'è la propagazione. E come hanno fatto a sapere il tuo indirizzo dall'ali? Perché sono iscritto, pago l'assicurazione per le antenne, capito? Sono 15 euro all'anno e c'è l'iscrizione in più, cioè le antenne assicurate, se cadono, fanno danno, paga l'assicurazione. Cava, ho capito, non lo sapevo. È già il secondo anno, dai. Ho degli amici qui di Sate, loro sono grandi maturi, io ho solo la licenza di SWPL, la vecchia licenza, anzi l'ho dovuta rifare perché la vecchia non si trovava, quindi ne ho rifatto un'altra. Ma non ci vuole più, non serve più a nulla, ce l'ho anche io. Ce l'ho lasciato, scusate un attimo il telefono. Aspetta, ti mando una foto. Dai. E di cosa? Della licenza ce l'ho anch'io. No, delle antenne. AK. Vabbè, sono arrivate ma non le hai aperte ancora. Azzuganti, mamma mia, gatta, troppe so. Queste ne puoi fare di ex con queste antenne. È che qualcuno ci ha fatta storta, vedi? Deve essere il vento. Allora. Ma perché molte ne hai antenne, fra? Ehi, queste sono un bel, caspita, un bel matto, dai. Ma tu sul tetto ce li hai? No, nel lavandino, ho un matto di asparagi, l'ho mandato a vedere a Natalino. E allora che problemi c'è a mettere anche l'altra, scusa? Che cosa? Di antenna. Quale altra? La Game Master. Oh, io ce l'ho, la mia ce l'ho nella finestra, ce l'ho sempre davanti alla finestra. Ma non l'hai ancora messa sul terrazzo? Ma cosa ci si intende? Non ho terrazzo, noi abbiamo un tetto chiuso, capito? Ah, cazzo. Lì bisogna tenere la tegola, fare un lavoretto, mettere una tegola finta, boh. Ci vorrebbe fare un foro in una tegola, proprio nella parte più alta però del tetto, perché le antenne sono nella parte bassa, le antenne della televisione, dai. Invece mettere proprio nella cuspide del tetto, dove si uniscono le due spiovente, fare un foro con una fresa, non so, da 20 mm, e farci uscire un tubo e tassellarlo poi sotto il tetto, sigillarlo sopra con del silicone, con qualcosa della guaina, e poi una volta che è fisso lì ci puoi mettere quello che vuoi. Scappa. E un altro riscatole, dai, sempre titubante. Ehi, vabbè, si fa quel che si può. E beh, da lì non riesci a portarla su verso su. Io sopra di me c'è un altro piano, e ci vorrebbe, sì, almeno 6 metri di palo, dai. E che poi arrivi sempre però alla parte bassa del tetto, non superi mai il tetto, ci vorrebbero altri 3 metri, quindi 3, 6, 9 metri di palo, ed è troppo, non regge quella staffa del ferro per stendere, ci vorrebbe un'altra staffa più robusta, usare dei pali magari in alluminio più leggeri. Quando c'è il tetto a tegola è sempre un problema, hai sempre paura di salire per romperle, è un casino. Perché poi quando ci sono da molto le tegole, se non è fatto da molto, se è fatto da molto il tetto, saranno i brasi, chi vuole. Molte infatti le abbiamo cambiate, ogni tanto le cambiamo qualcuna, perché si massiscono, addirittura il bordino dove dovrebbe fermare l'acqua, alla fine è proprio marcio, distrutto. E quando abbiamo preso le tegole sembravano uguali, invece le abbiamo dovute un po' modificare con la moletta, non ne trovi più ormai le tegole precise, capito? Ne fanno un modello simile ma le devi sempre un po' modificare. Cazzo, e intanto lo fanno polvere quando le tagli. Piano piano, eravamo sul tetto lì. L'abbiamo sistemato perché stavo gocciolando, con lei su si è lamentata. Adesso speriamo che di aver risolto. Ogni 2-3 anni comunque un po' di guaina gliela devi mettere dove escono le antenne della TV. Sicuramente il vento le muove e si guaina, la guaina si spacca. Magari si secca anche. Vabbè. Magari sono anche da cambiare tutti, devi fare il tetto. Approfittate del 110%. Magari, questi sono tutti anziani, appena gli parli roba, documenti da fare, è un casino. Ma poi qualcuno si è fatto qualche piccola modifica e già lì hai perso, perché la casa deve essere perfetta come mamma l'ha fatta. E a chi lo stai dicendo? Io non le voglio fare per quello. Una cosa l'ho fatta anch'io qui qualche tramezzo. Ho tolto qualcosa dalla cucina per aumentare il bagno, perché prima era una specie di zeta, no? Una rientranza c'era. Invece adesso tutto il bagno è grande, lineare. E invece nel mio c'era bagno e antibagno, no? Dove c'era il lavandino. E io ne ho buttato giù la porta che c'era al centro, perché c'erano due porte, una per entrare e poi l'altra che tramezzava tra l'antibagno e il bagno. Ho tolto quella porta lì, ho allargato e adesso c'è un po' di luce in più, un po' di spazio in più. E lì ci ho messo un mobile, capito? Se non sarebbe stato. Certo. Ma guarda, adesso sarà 4 metri di lunghezza per meno di 3 metri di larghezza, dai. Avanti, chi è? Vabbè, ho sentito una voce. Christian, ci sei? Forse la propagazione, perché lo sento anch'io appena, un leggero movimento di ago. Mi sembrava una donna, tra l'altro. No, non so, ho visto, si muoveva appena la lancetta, il QRM saliva, però io la voce non l'ho sentita. No, ho sentito anche la voce, che bello. Cava, Natalino, a te il Michelino, fa anche rima. Dai che rimango in ascolto, che mi devo misurare la glicemia, devo mangiare. Vai tranquillo. Vai tranquillo, buona carica. Adesso mi hai fatto sbagliare, mi date lì, cazzo, anch'io ho fame. Adesso come vedete la signora, anche qui si mangia, anzi toccherà preparare qualcosa a me prima che rientri lì, così facciamo più fretta. Sta entrando qualcuno oggi là? Sì, sì, sta entrando qualcuno anche la mattina, però dipende dalle serate, dai, dipende sempre dalle serate. Ma qualcuno già entra ogni tanto, c'era Bombolo poco fa, solo che poi è dovuto uscire a consegnare e quindi ha mollato. Ebbene, cuocomani. Mimi, ti distrai, la rata pignara. Mi accondormi. Buonasera ragazzi, sono entrato a salutare, solo che sto per mangiare, dai. Un saluto festoso a tutti. Quando la fai? Ma chi sta parlando sopra? Ciao Marguri. Avete parlato in due? Devo cominciare a parlare. Ciao Marcolino, carissimo. Dai, ma con condo, caro caro. Anche i bacini mi ha mandato, mi invito live. Dai, ciao a tutti, sto mangiando. Proseguite. Ciao. Ciao. Ciao Marco Righi. Alla prossimina, buona carica, buon tutto. Ai. Mi sa che vado a preparare anch'io qui già. Anche tu vai a preparare? Che ore sono? Sono già le 7:10. Sì, è presto ancora, a che la vuoi mangiare? Ho fame, perché sto mangiando praticamente in mezzo alla campagna, qualche panino al volo così. Ah, e vai allora, dai, non c'è problema. Ci sentiamo, dai, buona serata a tutti. Se c'è qualcuno all'ascolto che vuole entrare, sono qua. Becca, parla, salutami, saluto anche, come si chiama, Cristian, se rientra, saluti tu. Poi chi c'era? Tino Musco, c'è in ascolto, un abbraccio anche a lui. Alle prossime, ok? Avanti già. Ehi, dai. Ciao, stammi bene, Fra, ci sentiamo, dai. Alle prossime. Ciao. Ciao Franco, io ho finito di mangiare. Ok, tu sei messo, come ti siete tutto in casa di Natale. Ciao Natalie, un abbraccio anche a te. Quando la vuoi quella roba allora dimmelo. E quando sei disponibile, non c'è problema. Così me la metto a posto e me la tratto. Guarda, io finisco verso le 5:30-6, tutti i giorni. Ecco, la mattina alle 7 rientro, quindi dopo quell'ora lì. E mi fai un colpo di telefono quando stai passando da queste parti e me la passi. Dai, vediamo, dai. Ci sentiamo allora, ciao. Saluti anche la signora, ciao. Ce la devo me fra, venga a prendermela. A chi è che c'era? Tu dove ce l'avevi? Ma no, cosa ce l'aveva, Cristian? Sì, ce l'ha Cristian. No, ma la vendono. La fa l'assidio. No, lo so, non mi ricordo che manca fosse, lo sai. No, comunque è grossa, guarda, tanto un pollice, no, un po' meno di un pollice. Ed è caricata dalla base fino alla fine, dai. E per quello che escono forte, perché sono caricate. Anche se sono corte, con la carica recuperano la lunghezza. No, è 1,40 senza il radialino, quindi arriverà 1,50, non è corta, no? Allora già va bene, dai. Già va bene. Ma la macchina natalina non sta bene perché è nera e la macchina sua è bianca, invece la mia è nera. Sì, ma neanche si vede allora. Dalla Gianni, gata. Però non c'è l'attacco già, io ce l'ho attaccata alla macchina, se no te l'avrei dato l'attacco. Ma come si fa? Dai, che sto scherzando Natali, ma figurati. Non c'è problema, se la voglio già me la compro su internet, c'è. Non so se rendono come quelle vecchie, perché fatte adesso, non so se hanno la stessa resa, ma ci sono. Di tutte le lunghezze, piccole, grandi, lunghe, ce l'hanno di tutte le lunghezze su internet. Perché io se dovessi metterla quella lì fissa, la metterei dove c'è l'antenna della radio, quella della radio la metto sotto il tettuccio, che tanto prende lo stesso, perché già risaputo, già fatto ad altre persone, l'ha fatto anche Salvini, l'ha fatto altra gente, l'ha messa sotto il tettuccio e prende bene, se no rimuovo l'antenna a portabollo e al posto dell'antenna della radio ci metti quella lì, fatto lo yubu. E io l'ho messa quell'antenna VHF perché nell'autoradio che ho io c'è anche la frequenza nuova, quindi se non hai l'antenna non piglia. E che frequenza hai, Natali? Quelle che devono mettere di sabato, non mi rammento. Come se ha? Se mi viene in mente te lo dico. Perché fra un po' le feme la tolgono, no? E lasciano quest'altra frequenza qua, che sei 200 MHz. Vabbè, ma chi c'ha l'FM ci butta la radio allora. Non trasmetteranno più in FM. Io ho una radio di un chirio, che se la devo buttare via in macchina. È una cosa strana. Già c'è questo DAB, questa radio DAB, che non so se farà avanti la storia. E quella lì è la radio DAB, quella digitale, non è più analogica, sarà digitale la radio, come la televisione. Sì, allora per quello c'è il rimedio, si mette la pennina, una pennina USB con la scheda e c'è sempre della radio DAB. È come avere il televisore normale e metterci il decoder, la stessa cosa. Me lo stava spiegando quello di Pudiche. Io ce l'ho già nell'autoradio quella lì. Non ne ascolti, io ho la pennina, il Natalino Iarusaga canto le vagi, adesso ne ho registrato altre, ne ho caricato altre. A Natalino gli ho dato la pennina mia dove c'è tutte le canzoni anni 80, tutte quelle belle discoteche, ancora ce l'hai Natalino. Non me ne hai dato pennina, no, c'avevo il CD però non so dove è andata a finire, ma siccome c'ho l'attacco a pennina, me le registro al limite e mi pongo una pennina, vado pure il canzone. Sono la sarisa io. Ma io c'ho tutto, aspetta, c'ho tutte macchine io, pure io. Nella mia radio c'ho il modulo DAP, ma sono poche le radio che trasmettono, in digitale. Buonasera a tutti. Ciao Carlo. Ciao carissimo Carlo, avanti, buonasera. Buonasera Natalino, Gianni, Cristian e chi altri c'è, non lo so. Buonasera Carlo. Buonasera. No, vi ho sentito prima parlare di Radio DAB. Nella mia radio c'è il modulo, ricevo in AM, in FM e DAB, ma con la Radio DAB si ricevono pochissime radio, tipo Monte Carlo, EDDS, e il segnale non arriva un po' dappertutto. Ancora deve prendere piede, magari in futuro prenderà piede, quindi insomma nelle auto nuove usciranno già con tutti i moduli AM, FM e la Radio DAB digitale. L'FM lo lasceranno, penso, perché comunque la maggior parte delle frequenze radio è tutta in FM, forse la M va via via scomparendo, capito? Niente, e poi altre cose, antenne, eccetera, e dipende dal modulo della radio, se no va bene qualsiasi antenna per ricevere la radio digitale. No, la mia c'ha due antenne, due attacchi d'antenna c'ha. La radio che ho io. Comunque quello che diceva Gianni va bene, perché venderanno anche il moduletto, che se una radio ha l'uscita USB per una pendrive eccetera, si può ricevere anche con quello. La mia ce l'ha già di suo il DAB. Sì, tutte le radio di nuova concezione hanno già quel modulo lì. Ascolto ogni tanto la radio, ma giusto per quando sono in macchina, se c'è una partita eccetera, che magari non posso vederla in TV perché sto viaggiando, che cosa, allora l'accendo per sentirmi le notizie la mattina presto quando esco al lavoro. Dopodiché la musica con la pennina mi metto tutto là, oppure quella che ho sul telefono si collega col Bluetooth il telefono automaticamente, quindi mi sento le canzoni dal telefono, non uso neanche la pennina più. A fare così, tanto comunque anche se si stacca, come diceva Gianni, si mette sotto la cappotta e riceve lo stesso la radio FM. Della tua radio e mi fa tutto la sopra. penso di che farò quel lavoretto lì, ma quando c'è tempo buono, però. Bene, già. No, per cui io ho la lema che ha tanto la frutta nera, quello lì sicco. Ma sapete, con la macetta lì mette la figli. Faccio la scena della tua radio, metto la frutta nera anche. Ma questo quello per i fusi anche. Sì, sì. Natalie, come andiamo? Sì, come voi che andiamo? Sempre qualche volta a piedi, qualche volta in bicicletta, già. No, ti sto chiedendo perché l'altro giorno mi hai detto che chiudevi la trasmissione, che non ti sentivi troppo bene, capito? Per quello. No, oggi andiamo bene, e l'altro giorno mi sono sentito male veramente. Ma visto è che te lo chiedevo. Tutto a posto comunque. Sì, sì. Roba influenzale doveva essere. Maledizione, sì, io mi sono preso circa una settimana fa, mal di gola, raffreddore, ma mi è durato due giorni, però mi ha lasciato la tosse un pochettino così, ma niente di che, febbre niente. Neanche io febbre nulla, solo che mi è venuto da vomitare, insomma, mi ha fatto diarrea, roba di influenza doveva essere. Importante comunque essere vaccinati e così, anche se dovesse essere quella roba là, capito, gli effetti indesiderati e insomma le controindicazioni, che tutti i problemi che crea, non dovrebbe darli così accentuati, capito, quando uno è vaccinato. Sì, tutte e tre le ho fatto anche quello anti-influenzale, ne aggiungo 4 di vaccini a Mariduno. Dimmi tu. Allora sei a posto, almeno per quest'anno vai tranquillo. E infatti, solo che l'altro giorno mi sono sentito male, cavolo. E quando stai così l'unica cosa è stare sdraiato, prenderti qualche antidolorifico leggero tipo la tachipirina e stare a riposo. Ah, ti dirò, io non ho preso nulla e mi è passato tutto. Pure niente, come hai fatto tu, magari te la resisti un pochettino e dovrebbe passare. Io lo stesso non ho preso niente perché febbre non me ne ha dato, è che secondo me ho preso freddo al lavoro, come esci dal caldo al freddo quando fai servizi esterni, che sei al vacco carraio, stai dentro il gabbiotto che c'è caldo, c'è il condizionatore, poi esci fuori alle 5:30 del mattino e ci sono 4-5 gradi e quindi sono gli sbalzi termici che ti fregano, capito? Infatti non è quello. Via, diamo il cambio a qualcun altro. Gianni, dici qualcosa. Non vi ho detto nulla perché stavo cambiando il microfono, mi stavo afferrando qua, perché ce l'ho sotto e mi veniva male a cambiarlo. Adesso ho messo il microfono normale, come va? A grande. Si sente bene, vero? Yes, signore. Questo è l'originale del 2009. Poco fa avevo il Turner. Che differenza c'è? L'ho notato l'altro. L'altro, a dire la verità, da quando ha acceso uno degli ultimi passaggi andava e veniva la modulazione per un attimo, forse non avevi premuto bene il PTT o non lo so, però diciamo che già andava bene. Ciao Carlo, buonasera. Quello è possibile. Ah, buonasera Clark. Antonio solo. Quanto, e dove sei? E posso, perché? Ah, il segnale è la radio, pensavo fossi a casa, ho detto questo forse è Claudio. Sempre a bomba mi arrivi tu, che sei a caso, che sei al deposito, qua arrivi a manettone. Infatti pensavo fosse Claudio. No, sono io, sono entrato a salutarvi, ma ci sentiamo dopo. Ok. Sì, sì, perché quando ci siamo sentiti poi mi sono dovuto spostare, quindi alla fine sono dovuto andare a fare commissioni, farmacia, eccetera, e non ho ripreso se non adesso a casa. Ok, vi saluto a tutti, io chiudo adesso. Magari ci sentiamo a casa. Sono andato così a salutarvi. Ciao ciao a tutti. Ciao, ci sentiamo. Ciao. Ciao Antonio, buon rientro, buon tutto, alle prossime. Spettina, arrivava fortissimo qua Antonio a casa, una bomba quella radio. Quello lì, ci siamo sentiti stasera intorno alle 5. 5, no? Che è riuscito a fare una commissione, ha acceso un attimo in macchina e mi ha detto che stava facendo delle prove, che aveva fatto qualche piccola questione alla radio. Come usciva ho detto sì già arrivi bene, però sai, in macchina con la radio piccolina, no? Invece qua lo sentivo proprio una bomba. E infatti arriva forte adesso. Cristian, dove sei tu in giro? Sono arrivi bene comunque, se sei lì, sei in mezzo ai palazzi, ma già arrivi, stai da me, arrivi bene. Cava. Ho capito. La macchina c'è neanche una... Macchina, io ho due radioline piccole, quella CB e l'altra, è la radio AM/FM per sentire, insomma, partite, notizie, solo per quello, poi musica dal cellulare col Bluetooth e va alla grande. Io mi sono fatto una pennina degli anni 80, ma è allucinante, c'ho tutte le musiche degli anni 80, più c'ho tutte le musiche di adesso. Con la pennina è micidiale, perché passi, se diciamo te la selezioni per aprirti tutte le cartelle, se ce l'hai suddivisa su cartelle, automaticamente ne finisci una e inizia l'altra, oppure salti e ti senti quella che vuoi, capito? Ti selezioni le varie cartelle. Sì, già è buono anche quello, già. Ma ci sono tutte le musiche belle di quelle che ballavo io, mi ricordano tante cose quelle musiche, mi piacciono molto. E me le ho messe tutte. Quando Giovincello, eh? Sì, quando ero Giovincello, ma anche adesso se vado mi piace ballare. Ma scusa? Comunque mi è sempre piaciuta la musica, quindi la sento proprio nel sangue. La musica, il canto, la musica mi è sempre piaciuta. Adesso queste tirintunelle che fanno ballando durudù, durudù, durudù, mamma mia. Prima sì che erano musiche, ti facevano venire la voglia di ballare. Cosa? Qualcomane sei tu, cosa è cambiato? Spacciato? E questa è che radio, buonasera a tutti, l'artigiano adesso. Questo è il 2009 col microfono normale, Ecla. Sente una bella chiara, forte, pulita. L'altra, vabbè, una bella bestiolina. Ciao a tutti. Sono entrato di nuovo a salutarvi. Tanto ancora non venuto in TV. Buonasera Claudio, buonasera, c'è la partita su Prime Video, c'è la Champions, Juventus, Villarreal. Ho sentito, vediamo se non mi addormento prima, ce la guardiamo. Già me la vedo, anche se domani mattina al turno presto, però me la guardo perché ho riposato dopo pranzo un'oretta, per cui già sono abbastanza rigenerato da quel punto di vista. Come termina la partita me ne vado a letto, però. Questa è 5 watt, Cla, come ti arrivo? Di 90, tanto non mi arrivi, ma si è agganciato. No, che è agganciato? Adesso si è agganciato. Certo già, io l'unica cosa che ho di vizio quando parlo guardo sempre lo Smith, quindi l'ho visto il primo segnale, 9:20, poi si è stato 9:40. Non è bello questo apparecchio, questo microfono mi hanno detto che è molto chiaro e deve avere qualche cosa tipo precompresso come il Tokai, ce l'è presente il microfono del Tokai, qualche compressore all'interno perché è pesante. Sì, sarà qui a commissatore, una bella radio, bella pulita, corposa, nei medio bassi, gli acuti, c'è tutto. Pensavo fosse un microfono preamplificato, va molto bene. E chi c'è che è Natalino Cuomane? Cuomane sarai tu. Quello lì è furbillo, è quel Gianni, mi. È birichino, è. Sì, ma me non mi butti dietro, io già. Già me ne accorgo quando è agganciato, tanto già non si vede, piazzare i vetri di B. Andà bene. Oh, yeah. E cos'è qua? Non c'è nessuno là? No, sono tutti in letargo, non sento nessuno, e quindi a te se c'è qualcuno in 3x9, giusto a salutare. Sono tutti in letargo, 9, pazienza. saluto io là, se senti la nostalgia entro io e te lo ti saluto. Adesso ti saluto. Comunque la carissimo la tua radio, segnale radio Super 5. Bella, spero che saluto a a Claudio non fa manca dire, ho detto lo già che c'è Prigusci. A parte che lui è in postazione elevata e dove, quindi lì arriva forte, a parte le radio, l'antenna e tutto l'impianto, però anche la postazione è ottima quella. Beh, è in alto. Se poi vai a Usilo, ancora più bella. Già Lugredo, a Usilo, mi sa che non so quanta altitudine ha Usilo, però penso sia superiore ai 600. 600 sopra il livello del mare dovrebbe essere. Io quando volevo fare DX andavo a Usilo, parlavo con Coso, con Abasanta, con la zona di Oristano, da tutte le parti arrivavo dalla macchina. Buono, invece da qua dalla città diciamo non si arriva così lontano, quella zona lì via Basanta eccetera è difficile, anche se esci con tanti watt è difficile arrivarci. Ma lì c'è montagna, sei libero, si vedono, capito, le montagne si vede, se trovi il posto del varco per passare lì sei di lusso, solo è brutto andare d'inverno perché se c'è neve o ghiaccio dobbiamo fare un casino. E lì è bello salirci magari a primavera con l'antennone quello grande, base magnetica, capito, ti organizzi e sì, sicuramente qualche DX già riesci a farlo. Già ci vado, sì, vado spesso io, ci vado spesso proprio dove c'è la chiesa lì, la chiesa di Bonaria lì, vado lì su dove c'è quello spiazzo, dove si vedono le centrali uniche, pare che sei in aereo, tutte le nuvole ti mangiano i visini. 200 metri più alto di dove sono io, Carlo. Ma tu sei, rispetto a Sassari, sei molto più alto. Sì, dove ero prima ero 280, qua sono 400, 390, fate il conto. Infatti c'è una bella differenza, ce lo credo. Io in campagna 426 sopra il livello del mare, K. Vabbè, Carlo già sei venuto tu qua, l'hai visto come l'antenna. È praticamente nel giardino l'antenna e grazie a Dio mi sentono tutti e sento tutti. Se dovessi metterla sopra il tetto qua, allora no, non mi interessa, la lascio dove, tanto per fare due chiacchiere. Vedo che va più che bene da tutte le parti, centro, nord, sud di Sardegna, da tutte le parti, quindi non serve niente. Va bene così. Cos'hai detto tanto di 400? Quando ero in campagna a 426 metri sopra il livello del mare, nel piazzale però, non nel tetto, no? Dopo devi aggiungere l'antenna, sono 7 metri più 12 di palo, quant'è? E dunque, io sono 390, se poi aggiungi il tetto, l'antenna e tutto, ma l'antenna mia ne regge la vista a cavolo. Attaccata al muro di cinta del giardino, tutte sono attaccate lì, non le metto sul tetto, per l'estetica della casa, tra l'altro sono anche nascoste, quindi non va bene così, l'importante ci sentiamo, ci salutiamo e basta. Vai Gianni. Ma infatti, quanto le alzate le antenne qua? Guarda, la Mantova è due sono attaccate al muro, sono tre elementi da 2 metri, quindi escono praticamente 4 metri. La Smart Tech è lo stesso, sono sempre tre elementi, uno attaccato al muro, quindi esce 4 metri, poi c'è il dipolo dei 6 metri e adesso devo montare la 5 bande, la verticale 5 bande, 10, 15, 20, 40 e 80 e basta, boh, agli vinto. E ce l'hai separate dalla casa così, ce l'hai su muretto. Sì, sì, sono in fila nel muretto di cinta del giardino, all'angolo proprio, non l'altra strada, l'altro angolo ce le ho viste a casa, sono un po' nascoste. Mi piace fare tutte queste cose, capito già. E poi c'è la verticale VHF, VHF, su tutte e tre in fila. È un dipolo dei 6 metri e mezzo, però non c'è nell'altra perché è piccolo. E poi a fianco, ancora, un pochino distanziata di un paio di metri, metto l'altra verticale, tutto verticale, basta. usare un bel cavo. No, già io ho 15 metri di cavo per l'antenna, capito, che vanno un unico commutatore, poi commuto con un unico ingresso, tranne le due lì, capito, ma cavo Gianni, cavo, però stiamo parlando di cavo, invece paloni, non stiamo parlando di cavi del cacchio, lavoro fatto ad hoc, capito, ce l'avevo, poi un ventina di metri, 25 metri, ma era dati Walter, e quindi ho usato anche quello, però cavi buoni con veramente pelle buone, tutta roba buona, tutta roba comprata fuori, qua non c'è. I pelle dove li stai comprando, che qua fanno schifo, non avvittano, ho fatto 4-5 spezzoni, non ve ne è uno che avvitta gli appareti. No, io già sono andato, mi sono fatti cambiare, perché ne avevo preso 5 che mi serviva proprio per mettere nei cavi nuovi e non avvitavano. Sono andato ad Antonello e ho detto questi pelle non servono. Dice come? Allora guarda, questo è il mio e questo è il tuo. Questo è il barilotto, gli ho portato un barilotto. Ok, attaccami questo piede tuo a questo barilotto. Hai ragione, è corto, hai visto che non aggancia. Chiamami il piede, me li ha cambiati, me li ha dati tutti nuovi. Ma è successo anche a me, per cui io me li ho ordinati da internet, poi. Mi sono andato sempre meglio di quelli in plastica bianca. E nemmeno quelli a vita. No, già, io quelli li ho presi per fare alcuni lavoretti, però voi li ordinate tutti da fuori, capito? Puoi chiamare Media Shop, decidi a Buoni PL, oppure puoi chiamare Media Globe, puoi chiamare Tecnocomunicazioni, puoi chiamare Obi Radio, ce li hanno tutti i PL buoni, costano meno di quanto li paghi tu di plastica. Ma gli anfeno stai dicendo? No, non c'è bisogno di mettere anfeno per il lavoro che facciamo noi con la M27. PL buoni, sono quella battilite, non quella marrone, quella non è neanche bianca, è giallina, tipo anfeno, però sono un bel buoni. Ho capito, un bianco sporco. Esatto, sono un bel buoni, sono molto buoni e vanno molto bene, capito? Io vado a gestire tutti i canti, quelle ispezioni, perché non c'è uno che va bene, perché quando mi ha dato problemi, il baracchino, ti ricordi che usciva col fischio, usciva male la radio, quello lì era dovuto al fatto di commutazione, ho commutato male tra, perché ero in banda laterale e poi sono andato in AM e non gli ho fatto fare lo scatto completo, l'ho lasciato a metà tra uno e l'altro e quindi faceva quel difetto. Beh, però non mi era accorto subito qual era il difetto, quindi ho provato a cambiare gli spezzoni, sai, fai tutte le prove per eliminare il guasto. Beh, fatto sta che non viene da uno che si... ho dovuto mettere spezzoni vecchi che avevo già da prima con l'RG58 e faceva lo stesso difetto. Allora, Tanoghi, ho l'apparecchio, poi ho provato a toccare tutti i tasti, su canto, ho provato a commutare, ho visto che era commutato a metà, ed era quello il difetto. Sì, praticamente non chiudeva bene, capito? Automaticamente fa la stessa cosa anche in apertura e non ti dà la cosa giusta. E i commutatori devono essere buoni. Bisogna anche stare attento perché all'interno c'hanno delle lamelle, magari si consumano, fare un casino. Vabbè, l'importante è che hai risolto già. Andale. Riprendi il cavo e fai girare per Natale. Io ho ordinato sia il cavo che i PL da MRadio Shop, ottima qualità, costi dimezzati rispetto a quelli che puoi trovare qua a Sassari. Ci credo. Che cavo hai messo tu, Carlo? Questi Paoloni, praticamente è quello 213U 1000, c'è scritto C17 Plus 10, quello della Messie Paoloni. E con le caratteristiche militari. No, vabbè, io non lo conosco quel cavo lì. Io ho messo l'H100, che è quello che viene dopo l'RG58, che è un po' più buono, dai. Ma va bene, questo cavo va bene, dai. Va bene, H100 per te, va benissimo alla grande. Va benissimo, beh, invece Paroni è migliore che c'è, sono cavi particolari.